questa adesso. E poi sventiando con la parabola, 12, 154 canali, che sta lavorando a braccio da cane. C'è il venticello, eh? C'è il venticello, c'è freddo, non so il venticello. No, freddo proprio no, perché la temperatura salirà a livelli preoccupanti. Nei prossimi giorni addirittura parlano di primavera. Poi vediamo cosa succede. Io ho sentito. Vabbè, quei giorni li vuol dire ne approfitteremo a fare qualcosa fuori. E poi se la prenderà nel coso, dove ti dica, tanto. Si capisce più niente, no? Per quello. Siamo buscire. Sono tutto a pezzi per lui, un po' caldo, un po' freddo, umidità, qui, là. Ti hanno detto che c'è freddo, mi ha dall'altra parte. Sta invecchiando, Claudio. Sì, invecchiando sì, cosa vuoi fare? Purtroppo questi gai. Meglio poterlo dire comunque, ok. ti volevo dire, siccome mi serve un piacere, mi puoi dire se tu c'hai una radio base, quella che usi in VU o anche in U, che c'ha lo strumento analogico, cioè la lancetta? Non ho capito, cosa hai detto? Allora, ti ho chiesto se tu hai un apparato base, probabilmente quello che usi in VU, che abbia il misuratore analogico, non digitale, in modo da accorgerti delle minime variazioni di segnale. No, assolutamente no. Io uso un veicolare lì, di banda, a LED, quello analogico base al centro assistenza l'ho mandato la ICOM, quindi non so quando me lo mandano, non ne ho comunque. E quindi i segnali non ne puoi dare, diciamo, ti arrivano, non te ne accorgi se c'è variazione, giusto? No, già, devono ti fanno scala. Peccato, perché dopo trovate delle antenne, e siccome noi non siamo così vicini quando stavamo, sono, diciamo, 16 km forse ci sono. Non so, io sono 4 da dove ero prima, 4 km da dove ero prima, poi da lì a casa tua non lo so quanto sono. 4 più 8 allora, dai, dovrebbero essere no, forse più 9, dai, e uno 13-14 km in linea d'aria, poi li potrei misurare anche più di preciso, ma... vabbè, peccato. Vabbè, aspettiamo che arrivi l'apparecchio. E puoi chiedere a cosa? Questo? 6-20. Roberto che c'ha il... No, vabbè, anche lui c'ha il 2000. Vabbè, ma te lo potrebbe dare col 711, che è molto preciso, quella radio. C'è lo smitter analogico. No, io non ho niente, anzi ti dirò, se non avessi avuto quella da mandare a riparare avrei tenuto quel veicolare giusto così per fare due chiacchiere, non avrei comprato manco uno spillo, solo che ce l'ho quella lì, è un peccato, non va nuova, è diventata sorda, quindi abbiamo mandato alla ICOM a mettere a posto, adesso vogliamo, ma lo manderanno sicuramente dopo le feste. Beh sì, oramai sì. Oramai sì. Ci sono anche lento questo televisore. Ha ancora il 31%. Oh, caro Claudio, che fatica. Siamo proprio ogni cosa inizia a pesare. Rosaccio. Vai al 20, io. Chiudiamo il 20 noi, così qua se c'è qualcuno vuole entrare si fa due chiacchiere, vai al 20. Ok, 20 sì. qualcuno? C'è qualcuno su 10? C'è su 10?